le ore della passione di nostro Signore Gesù Cristo, scritte da Luisa, la piccola figlia della Divina Volontà. Dodicesima ora, dalle 4 alle 5 del mattino. Gesù in mezzo ai soldati. Preghiera di preparazione. O Signore mio Gesù Cristo, prostrata alla Tua Divina Presenza, supplico l'amorosissimo Tuo cuore che voglia ammettermi alla dolorosa meditazione delle 24 ore, in cui per nostro amore tanto volesti patire, nel corpo adorabile e nell'anima Tua Santissima, fino alla morte di croce. De, dammi aiuto, grazia, amore, profonda compassione e intelligenza dei Tuoi patimenti, mentre ora medito l'ora dalle 4 alle 5 del mattino. E per quelle che non posso meditare, Ti offro la volontà che avrei di farle, e intendo intenzionalmente meditarle in tutte le ore che sono costretta o di applicarmi ai miei doveri o di dormire. Accetta, o misericordioso Signore, la mia amorosa intenzione e fa che sia di profitto per me e per molti, come se effettivamente e santamente eseguissi quanto desidererei di praticare. Intanto grazie ti rendo, mio Gesù, che per mezzo della preghiera mi chiami all'unione con te, e per piacerti di più prendo i tuoi pensieri, la tua lingua, il tuo cuore, e con questo intendo pregare, fondendomi tutta nella tua volontà e nel tuo amore. Estendendo le braccia per abbracciarti, poggio la mia testa sul tuo cuore ed incomincio. Vita mia dolcissima, Gesù, mentre dormivo stretta al tuo cuore, spesso mi sentivo pungere dalle spine che pungono il tuo santissimo cuore, e volendo svegliarmi perché tu abbia una almeno che noti tutte le tue pene e ti compatisca, mi stringo più forte al tuo cuore e sentendo più al vivo le tue punture mi sveglio. Ma che vedo, che sento, vorrei nasconderti nel mio cuore per espormi invece tua e ricevere su di me pene così dolorose, insulti ed umiliazioni così indicibili. Ma solo il tuo amore poteva sostenere tanti oltraggi. Mio pazientissimo Gesù, che cosa potevi sperare da gente così inumana? Già vedo che si prendono gioco di te, ti coprono il volto di densi sputi, la luce dei tuoi begli occhi resta coperta di sputi, e tu, mandando fiumi di lacrime per la nostra salvezza, spingi dai tuoi occhi quegli sputi. E i tuoi nemici, non essendo il loro cuore capace di vedere la luce dei tuoi occhi, tornano di nuovo a coprirli di sputi. Altri, facendosi più bravi nel male, ti aprono la dolcissima bocca e te la riempiono di sputi fetenti, tanto che loro stessi ne sentono la nausea. E siccome quegli sputi scendono e mostrano in parte la maestà del tuo volto e la tua sovrumana dolcezza, si sentono rabbrividire e si vergognano di se stessi. E per essere più liberi ti bendono gli occhi con uno straccio vilissimo, in modo da potersi del tutto sfrenare sulla tua adorabile persona, sicché ti battono senza pietà, ti trascinano, ti pestano sotto i piedi e ripetono i pugni, gli schiaffi sul tuo volto e sulla testa, graffiandoti e tirandoti per i capelli, e ti balzano da un punto all'altro. Gesù, amor mio, il cuore non regge vedendoti in tante pene. Tu vuoi che noti tutto, ma io mi sento che vorrei coprirmi gli occhi per non vedere scene così dolorose, che fanno strappare il cuore da ogni petto, ma l'amore per te mi costringe a guardare che n'è di te. E vedo che non fiati, che non dici una parola per difenderti, che stai in mano a questi soldati come uno straccio e possono fare di te quello che vogliono. E vedendoli saltare sopra di te, temo che tu muoia sotto i loro piedi. Mio bene e mio tutto, è tanto il dolore che sento per le tue pene che vorrei dare grida così forti da farmi sentire su nel cielo e chiamare il Padre, lo Spirito Santo e gli angeli tutti, e qui in terra, da un punto all'altro, chiamare per prima la dolce mamma e tutte le anime che ti amano, in modo che formando cerchio attorno a te, impediamo a questi insolenti soldati di avvicinarsi a te per insultarti e tormentarti ancora. Ed insieme con te ripariamo tutte le specie di peccati notturni, soprattutto quelli commessi dai settari sulla tua sacramentale persona durante la notte, e tutte le offese delle anime che non si mantengono fedeli nella notte della prova. Ma vedo, insultato mio bene, che i soldati, stanchi ed ubriachi, vorrebbero riposarsi, ed il povero mio cuore, oppresso e lacerato da tante tue pene, non vuole restare solo insieme con te. Sente il bisogno di un'altra compagnia. De, dolce mamma mia, sii tu la mia inseparabile compagnia. Abbracciami insieme Gesù per consolarlo. Oh Gesù, insieme con la mamma ti bacio e benedico, e con lei prenderò il sonno dell'amore sul tuo adorabile cuore. Riflessioni e pratiche. Gesù in quest'ora è in mezzo ai soldati con animo imperturbabile, con costanza ferrea. Da quel Dio che è, soffre tutti gli strapazzi che i soldati gli fanno e li guarda con tanto amore da sembrare che li inviti a dargli più pene. E noi, nelle ripetute sofferenze, siamo costanti oppure ci lamentiamo, ci infastidiamo, perdiamo la pace? Quella pace del cuore necessaria per fare che Gesù possa trovare in noi una felice dimora. La fermezza è quella virtù che fa conoscere se Dio regna veramente in noi. Se è vera virtù la nostra, saremo fermi nella prova con una fermezza non a periodi, ma sempre uguale a se stessa. Ed è questa sola fermezza che ci dà la pace. Come più ci rendiamo fermi nel bene, nel patire e nell'operare, così veniamo ad allargare il campo intorno a noi, dove Gesù allargherà le sue grazie. Sicché, se noi saremo incostanti, piccolo sarà il nostro campo, e Gesù poco o nulla potrà spaziarsi. Se invece noi saremo fermi e costanti, trovando Gesù il campo molto esteso, troverà in noi il suo appoggio e sostegno, e dove distendere le sue grazie. Se vogliamo che il nostro amato Gesù riposi in noi, circondiamolo della stessa fermezza con cui operava per la salvezza delle anime nostre. Egli, così difeso, starà nel nostro cuore in dolce riposo. Gesù guardava con amore quelli che lo maltrattavano. E noi guardiamo con lo stesso amore quelli che ci offendono. E l'amore che mostriamo loro è tanto da far che sia voce così potente per i loro cuori da convertirli a Gesù. Mio Gesù, amore senza confine, dammi questo amore e fa che ogni pena chiami anime a te. Preghiera di ringraziamento. Mio amabile Gesù, tu mi hai chiamato in quest'ora della tua passione a tenerti compagnia, ed io sono venuta. Mi pare di vederti angosciato e dolente, pregare, riparare e patire.